Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Tutto scorre. Pantarei, diceva il filosofo greco Eraclito. Questo principio, secondo cui l'essenza delle cose è il movimento, potrebbe avere nel sangue il suo simbolo per eccellenza. Al suo movimento e alla sua efficienza è legata la nostra vita. Eccoci insieme, sono Nicoletta, benvenute, grazie per essere in mia compagnia. Oggi ho particolarmente bisogno della vostra collaborazione perché ho un'idea da proporvi. Iniziare insieme una nuova carriera, quella del donatore di sangue. Uso naturalmente il termine carriera tra virgolette perché in Italia il sangue viene donato esclusivamente in maniera volontaria, anonima, gratuita, periodica e responsabile. Ma voi che ne dite? Io credo sia importante tornare ad affrontare questo tema e fare una riflessione a voce alta. La donazione è un gesto che, a chi i requisiti per farlo naturalmente, costa davvero poco, giusto il tempo del prelievo, e vale molto. Più di molto, direi, perché il sangue è vita. Ci sono delle vite che sono proprio legate alla donazione. Pensiamo ai talassemici che vivono grazie alla donazione, poi ad interventi come ad esempio i trapianti che richiedono una grande disponibilità di sangue e non hanno stagioni. Insomma, possiamo dire che la richiesta di sangue è un sempreverde. Tante sono quindi le ragioni per donare. Il sangue al momento non può essere ottenuto in laboratorio, può essere per l'appunto solo donato. Dell'importanza e della necessità di donare, ma anche dei vantaggi ci sono che l'essere donatore comporta, parliamo nella puntata di oggi, in cui io vi invito a dare voce a tutti i vostri dubbi, le vostre paure, ma invito chi è già donatore a raccontarci la sua esperienza, perché donare sangue è un atto di sensibilità e di consapevolezza che fa sentire fieri di noi stessi. 800 24 00 24, questo è il numero verde. Abbiamo il piacere di avere in linea con noi il professor Giuliano Grazzini, che è direttore del Centro Nazionale del Sangue. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno dottoressa Carbone, buongiorno. Professore, buongiorno a tutti voi. Professore, mi chiami Nicoletta, perché Nicoletta, i miei ascoltatori e noi mi chiamano tutti così e io sono molto contenta. Professore, la donazione non dovrebbe conoscere stagioni perché c'è sempre bisogno di sangue, ma in alcuni periodi dell'anno. È bene ricordare a tutti che in 15 minuti della nostra vita valgono una vita, o forse più di una vita. Sì, assolutamente sì. Voi avete iniziato in modo eccellente questa trasmissione citando Eraclito, il Pantarei di Eraclito. Io vorrei arrivare, per introdurre questa chiacchierata di stamani, più vicino a noi, all'inizio degli anni 70, quando un giornalista, scrittore abbastanza famoso, Dominique Lapierre, folgorato dall'incontro con Madre Teresa di Calcutta, andò a visitare le baraccopoli di Calcutta e lì nel suo rapporto di questo viaggio così impressionante per lui, lui cita un momento in cui lui vede in mezzo alla grande miseria, la serenità, ma anche la dignità assoluta che imperava in questa situazione sociale estremamente difficile. Lui cita una frase che si applica benissimo a noi. Lui diceva che ciò che non è donato è perduto, indicando in questo la solidarietà come base stessa della relazione fra sconosciuti, e quindi sul fatto che nel momento in cui tutti ci possiamo sentire uniti di fronte ad un bisogno, indubbiamente possono sorgere dei momenti particolari in cui ognuno di noi dà quello che probabilmente, comunemente, non ritiene di poter dare. Mi sono assegnata la frase: ciò che non è donato è perduto. 800 24 00 24, per voi che ci seguite da casa, una domanda che voglio legare al nostro consiglio di lettura, Bianca come il latte, rossa come il sangue, di Alessandro D'Avenia, in collaborazione come sempre con la libreria Rizzoli.it. Andiamo a sentire la prima domanda. Chi ha scoperto la circolazione sanguigna? Leonardo, Giovan Battista Morgagni, William Harvey, Galeno. Rispondete, chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24, avete tempo sino alle 11.30, ma state attenti perché nella seconda parte della trasmissione una nuova sfida vi attende. Ma intanto, professor Grazzini, vogliamo ricordare chi può donare? È molto semplice, per donare il sangue e i suoi componenti è necessario solamente essere in buona salute, pesare almeno 50 kg, essere maggiorenni, quindi avere la maggiore età, e in particolare essere esenti da comportamenti personali che possono mettere a rischio la sicurezza del sangue. Tutto qua. Poi presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta, che sono presenti numerosissimi sul nostro territorio nazionale, i medici e gli infermieri che accolgono i donatori fanno poi una selezione clinica accurata del donatore stesso. Alberto ci chiama da Pavia. Buongiorno Alberto, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, prima di tutto devo fare i complimenti per questo argomento che trattate, che è meritorio e molto molto utile e indispensabile. Poi volevo dire che sono donatore da circa 15 anni. Sì. E niente, una cosa bellissima, ti fa star bene in tutti i sensi, ecco. Poi dopo ti permette anche di avere una situazione diciamo sotto controllo dal punto di vista medico, per tutti gli esami che bisogna sempre fare eccetera, per cui niente, non ci sono controindicazioni, si sta bene, non si soffre quando si prevede. Ecco, perché molti hanno paura anche del, esatto, del lago. Assolutamente no? non c'è nessun non c'è da avere assolutamente paura, anzi, anzi Alberto, stare bene psichicamente, fisicamente, in tutti i sensi. Quindi io ho la fortuna di donarlo poi qua in una zona, in provincia qua di Pavia, dove c'è un presidente che si dà da fare, che infatti ha avuto un incremento notevolissimo di donatori, e molto merita tutto il nostro rispetto, tutta la nostra gratitudine. Grazie. Invito Alberto. Tutti a farlo. Ecco, seguiamo l'invito di Alberto che ci chiama da Pavia. Ma quali sono le ragioni che spingono a diventare donatore? In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Aldo Ozzino Calligaris, presidente FIDAS, la Federazione Italiana Associazione Donatori Sangue. L'associazione, in collaborazione con il Censis, ha svolto un'indagine che fotografa proprio lo stato della donazione in Italia. Dottore, buongiorno e bentornato. Buongiorno, bentrovata a lei, dottoressa Carbone. Perché si va a donare? Quali sono le motivazioni che spingono una persona in un determinato momento della sua vita a pensare, no, alla frase che ci ha ricordato il professor Grazzini: ciò che non è donato è perduto. Intanto saluto anche il direttore, buongiorno Giuliano. Buongiorno Aldo. Le motivazioni per cui si va a donare, fondamentalmente anche emerse da questo studio commissionato da FIDAS a Censis, sono sostanzialmente due. Si dona per motivi solidaristici, quindi per un forte legame con un senso civico della donazione, ma anche si dona per tenere sotto controllo la propria salute, quindi per ragioni un po' individualistiche, sì, ma che hanno una forte ricerca di far bene e di essere persone sane, persone che monitorizzano e tengono sotto controllo il proprio stato di salute. Presidente, come è cambiata negli anni la figura, il profilo del donatore? Il donatore sicuramente è diventato un donatore responsabile, un donatore periodico, un donatore informato. Quindi è cambiata la donazione, passando da una donazione spontaneistica fatta per un senso di buonismo a una donazione responsabile fatta con consapevolezza, lo diceva prima anche il donatore Alberto, quando si viene chiamati a donare, quando serve il proprio sangue, quando servono gli emocomponenti che si possono donare, quando serve il gruppo sanguigno. E questo rientra in un'ottica di coerenza e di risposta a quello che è un fabbisogno, che deve essere un fabbisogno programmato, per avere l'emocomponente, il sangue che serve alla necessità del paziente. Quindi io ritengo che questo sia un cambiamento molto importante, legato a una donazione che conserva il sangue nel modo migliore all'interno del donatore e lo rende disponibile con grande generosità e grande disponibilità, ma soprattutto con la massima valorizzazione, perché appunto è un bene prezioso, lo diceva lei molto correttamente all'inizio, non si fabbrica in laboratorio, non si può avere dalle industrie farmaceutiche e quando occorre deve essere disponibile per garantire la vita all'ammalato. In linea con noi abbiamo un donatore d'oro. Tutti i donatori sono d'oro, ma lui lo è in modo particolare, Igor Cassina, perché è oro olimpico alla sbarra di Atene 2004. Igor, ciao, bentornato. Ciao, buongiorno a tutti. Senti Igor, tu quando hai iniziato a donare? Soprattutto perché l'hai fatto? Sì, allora io mi sono avvicinato all'Avis e quindi alla donazione dopo l'oro di Atene 2004, quindi sì. Come dico sempre, sono sempre stato magari un po' egoista, che ho sempre pensato a me stesso e grazie a questo risultato nel mio sport ho anche capito e apprezzato il bel gesto nobile della donazione, quindi oltre alla tutela personale di sapere come stiamo, è anche un bel gesto e soprattutto essere vicini alle persone che soffrono e che possono avere bisogno e che ne hanno bisogno di sangue. Quindi un bellissimo gesto che pian piano sta per entrare nel cuore di tutti, tutti sono più sensibili a questo gesto e mi auguro col tempo che tutti possano diventare donatori per la loro tutela e per il bene del prossimo. Giancarlo ci chiama da Livorno, buongiorno Giancarlo. Sì, pronto, sì. Giancarlo, buongiorno a lei. Sì, come dicevo al suo assistente, non sono donatore, però vivo per merito di donatori. Grazie Giancarlo che ci ha chiamato. Prego. Vive perché è importante quando noi siamo ancora indecisi se andare a donare o no, ricordare che ci sono delle persone come Giancarlo che vivono grazie alle donazioni di sangue. Giancarlo, ci racconti la sua storia. Niente, sono 6 anni che mi hanno diagnosticato una mielodistasia. Praticamente il midollo non riproduce più i globuli rossi. E ogni 15 giorni ho bisogno di 2 sacche di sangue, tra cui una l'ho fatta, sono in vacanza, l'ho fatta a Cecina ieri, e vivo con questa patologia, insomma. E non ho parole per ringraziare i donatori, insomma, si intende questo. Grazie Giancarlo per averci chiamato. Ecco, il grazie di Giancarlo, professor Grazzini, arriva un po' a tutti i donatori e io sono certa che farà magari trasformare un donatore occasionale in un donatore abituale o farà fare ad alcuni il primo passo. Che dice? Assolutamente sì, io credo che sensibilizzare la popolazione, tutta, i cittadini, nei confronti dei grandissimi bisogni che esistono nella sanità a tutti i livelli sia assolutamente importante, perché noi abbiamo ancora diverse resistenze tra i cittadini. Noi abbiamo fatto negli anni passati degli studi scientifici sulla motivazione della non donazione, no? E sì. abbiamo rilevato che diverse persone ancora non donano per varie motivazioni, tra l'altro la prima delle motivazioni che abbiamo rilevato, che è un 32-33% dei soggetti intervistati, è quella relativa alla pigrizia o la mancanza di tempo. In secondo luogo, purtroppo ancora un 27-28% delle persone denunciano mancanza di informazione, mancanza di conoscenze. Quindi un 30%, un terzo dei soggetti che non donano dicono di non conoscere il perché si deve donare, quindi far conoscere in modo ricattatorio, lasciatemi dire questa parola, i bisogni dei malati, che sono incredibilmente elevati, è molto importante per colmare anche questa mancanza di informazione o di conoscenza. E estremamente importante anche in qualche misura far arrivare il messaggio in modo corretto. Il messaggio che stamani vorrei mandare è questo: noi nei nostri ospedali, quindi laddove i pazienti hanno malattie acute o croniche anche, che sono prevalentemente curate fuori dall'ospedale, quindi l'insieme delle patologie acute e croniche che necessitano di sangue, individua all'incirca un 60-65% delle persone che comunque accedono alle cure. Quindi diciamo che prima o poi nella vita di un paziente circa 2/3 o poco meno dei pazienti avranno necessità del sangue o di qualche prodotto che deriva dal sangue. Da qui deriva la grande importanza che la donazione sia incentivata, sia promossa, proprio perché questi bisogni sono in crescita continua, in particolare con l'aumentata senescenza della popolazione i bisogni chiaramente aumentano in modo veramente esponenziale, e soprattutto le tecniche mediche e chirurgiche sempre più avanzate si applicano sempre più anche in età più avanzata, pertanto evidentemente il bisogno di sangue cresce costantemente. Non è altissimo, ma cresce comunque di un 1,5-2% ogni anno, per cui i donatori devono essere incentivati, i cittadini devono comprendere che è un bisogno veramente assolutamente indispensabile e strategico per la salute pubblica. Allora, abbiamo in linea Igor Cassina, e quindi un grandissimo sportivo, e io vorrei, dottor Zino Caligaris, chiedere a lei: molti sportivi sono sportivi amatoriali, temono che la donazione possa in qualche modo influire sulle performance. Ecco, il fatto che non succeda, ce lo dimostrano tantissime squadre di giovani che giocano a pallacanestro, a pallavolo, e vanno a donare, e ancora di più Igor. Ma presidente, ci può dare una risposta? Può sciogliere questo dubbio? Questo più che un dubbio è una leggenda metropolitana, cioè è giusto ringraziare tanti donatori che quotidianamente assicurano quelle 9.000 donazioni che permettono la trasfusione che vengono fatte ogni giorno in Italia, e ringraziare soprattutto i grandi testimonial che si rendono disponibili per poter promuovere la donazione attraverso la loro testimonianza. E l'importante è proprio questo, cioè far capire e far passare ai cittadini che ancora non sono donatori, non sono sensibili a questa tematica, che la donazione non solo non fa male, perché significa donare una parte del proprio corpo, che comunque il sangue viene poi rigenerato fisiologicamente dall'organismo. Ma addirittura può far bene, fa bene perché permette di tenere sotto controllo la propria salute, fa bene perché comunque permette di seguire corretti comportamenti e stili di vita, e quindi permette, diciamo, alla persona comunque di avere dei benefici anche diretti per quello che riguarda se stessi. In particolare gli atleti, gli sportivi sanno bene che con una buona alimentazione, con un'attività fisica costante si raggiungono migliori performance. Ecco, la performance della donazione è una performance di grande valore, è una performance che sicuramente può dare un risultato e un soddisfacimento maggiore di vincere una gara piuttosto che di vincere una partita. Io credo che Igor potrebbe aggiungere proprio un messaggio a quanto ci ha appena raccontato il presidente. Igor. Sì, io confermo quello che è stato appena detto. Ho sempre fatto attività 4-5-6 ore tutti i giorni, solamente il giorno della donazione magari, anche se mi consigliavano di non fare allenamento per stare più tranquillo, sono comunque sempre andato e sono in perfetta integrità fisica, quindi il consiglio più spontaneo è quello che la donazione non frena nella maniera più assoluta poi l'attività sportiva, quindi donare anche per gli atleti, anzi salutare fa bene, ti fa stare bene con te stesso, col tuo fisico e con gli altri. Grazie al presidente Aldo Zino Caligaris e a Igor Cassina per essere stati con noi. Noi continuiamo, grazie per veramente per la vostra testimonianza, per il tempo che ci avete dedicato. Intanto grazie a voi, ci sentiamo presto, spero, e intanto io vi ricordo la domanda a cui è legato il nostro consiglio di lettura, e se volete rispondere 800 24 00 24. E intanto vorrei andare da Gianni, che ci chiama da Torino. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, la mia testimonianza è un po' particolare proprio sull'importanza della donazione. Io ho cominciato a fare la prima donazione che avevo 18 anni, perché mi sembra che ci vuole la maggiore età. Sì, è vero. Poi anche se non avevo una frequenza magari continua, però ho sempre continuato. Mai più avrei pensato, dopo una ventina d'anni, di dover dare poi una donazione per mio figlio, perché nella serie di varie operazioni che ci sono state necessita sempre di trasfusioni. Certo. E, la prima volta mi è stato possibile farlo direttamente perché era ancora possibile, adesso non permettono più la trasfusione Sì, da padre a figlio, però io continuandolo a fare comunque diciamo che andavo a sostituire quello che qualcun altro faceva per suo figlio. Grazie. E questo è appunto quello che dovrebbero, quando si pensa di non avere tempo o cose varie, bisognerebbe pensarlo, che c'è qualcuno al posto nostro che in questo caso tira fuori il sangue che potrebbe servire a salvare il proprio figlio, insomma, quindi questo andrebbe considerato. Ecco. Grazie Gianni. Prego. Noi andiamo a Michele che ci chiama da Firenze. Buongiorno Michele. Buongiorno. Come dicevo alla sua collaboratrice, io sono un donatore di sangue da circa una ventina d'anni, no? Sì. E l'ho sempre fatto perché comunque sentivo una cosa spontanea e senza nessun impegno, senza una cosa proprio fatta che si sente e la si fa soprattutto per il bene delle persone al quale hanno bisogno di sangue, che si sente comunque sempre in tutti i giorni. Però è stata una cosa che comunque è servita anche a me, perché proprio a riguardo al fatto che sono andato a fare una donazione e mi hanno trovato un problema a una valvola cardiaca del cuore, e infatti proprio per questo discorso qua ho subito un'operazione. E quindi proprio Michele, lei sottolinea un aspetto molto importante: ci sono dei vantaggi anche per il donatore, perché viene tenuto sotto controllo. Professor Grazzini. Sì, assolutamente sì. L'Organizzazione Mondiale della Sanità quest'anno, per la giornata mondiale del donatore, ha lanciato il motto: la donazione del sangue è un indicatore di salute, nel senso che ad ogni donazione vengono fatti controlli sanitari, medici, e chiaramente soprattutto quando il donatore comincia ad andare avanti con l'età può manifestare qualche piccolo o anche non piccolo problema, e la probabilità che questo problema venga intercettato nella selezione clinica del donatore è molto alta. Quindi si può fare una preventiva per le persone. Allora, chi ha scoperto la circolazione sanguigna? Questa è la prima domanda. Ci sarà una seconda sfida. A questa prima domanda abbiamo abbinato il consiglio di lettura Bianca come il latte, rossa come il sangue di Alessandro D'Avenia. Eleonora ci chiama da Napoli, 800 24 00 24. Rapidamente, prima dei mercati, Eleonora? Sì, buongiorno. Buongiorno. Posso rispondere? Certo. Io dico galeno. No. No, non è lui. Allora, rimanga comunque in collegamento con noi, perché c'è un'altra possibilità a cui abbiniamo niente po' di meno che i primi 10 racconti della raccolta Racconti d'autore, che ogni domenica è abbinata al Sole 24 Ore a soli 50 centesimi in più oltre al quotidiano. Sono bellissimi. E quindi insieme al professor Grazzini noi andiamo a sentire i mercati, il meteo, e poi torniamo qui con i volontari, con i nostri dubbi, con le nostre parole, perché mi piacerebbe che alla fine di questa puntata qualcuno mi dicesse: mi hai convinto, vado a donare. Essere e benessere. Per quelli di voi che ancora non lo sanno, ora passo a presentarvi la futura Mrs. Exclusive, Grace Campbell. Eccola qua! Guardatela! Non è bellissima? Ha appena donato il sangue e ne ha ancora abbastanza per arrossire come una mammola. Eh sì, dietro ogni grande uomo c'è una donna che alza gli occhi al cielo, gente. Sono Bruce Nolan per Eyewitness News, con tutti gli amici qui della donazione di sangue che vi ricordano... Sì, il tuo miracolo! E siamo tornati, torniamo a parlare di donazione, la stagione lo impone perché in estate il bisogno di sangue aumenta, ma c'è bisogno di sangue tutto l'anno. L'importante è iniziare e soprattutto, una volta fatta la prima donazione, prendere l'abitudine, continuare a farlo, perché diventare da donatore occasionale a donatore abituale può fare la differenza. Intanto ho delle diverse segnalazioni dalla regia per molti di voi che voglio vogliono dare provare a dare la risposta a chi ha scoperto la circolazione sanguigna. Vediamo Giovanni dalla provincia di Treviso. Buongiorno Giovanni. Sì, buongiorno. Allora, è William Harvey. Ma anche se la scoperta è da collegare a una esperienza padovana. Veramente? Per questo lei era abbastanza era così informato? Perché? Sì, sì. Perché ha lavorato all'Università di Padova e quindi a Battista Morgagni. Vede? Vede che professor Grazzini, lei lo sapeva questo, che c'era stata questa ventata di aria padovana, che insomma padovana veneta? Sì, assolutamente, anche se all'epoca di Harvey, che siamo a cavallo tra il 500 e il 600, si pensava che il sangue fosse generato dal fegato, secondo le vecchie concezioni di Galeno. Galeno, e William Harvey fece superare questo errato con il concetto. Allora Giovanni, lei in collaborazione con la Rizzoli.it può ricevere a casa il romanzo Bianca come il latte e rossa come il sangue di Alessandro D'Avenia. Mi auguro che lei non l'abbia ancora letto, ma lo legga perché è un bellissimo romanzo. Grazie Giovanni per essere intervenuto. Giovanni, grazie. Lei è un donatore? Sì, sono stato donatore. E ha smesso? Ho smesso per problemi di salute. Di salute. Diciamo. Grazie a Giovanni. Tra l'altro, professor Grazzini, voglio dirle che già Gianluigi da Vicenza e Sergio al 349-238-6666 mi hanno detto: mi avete fatto vincere la pigrizia, vado a donare. Vi prendiamo in parola. Questa è una cosa eccezionale. Fede, mi fa molto piacere. Ma moltissimo. Allora, molto, molto veramente. Intanto andiamo da Enrico, che ci chiama da Parma. Vorrei sentire proprio un po' i dubbi che sono legati un po' alle paure legate alla donazione del sangue. Vediamo Enrico, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletta, e ai suoi ospiti. Grazie. Io ho detto che fin tanto sabato andrò a donare, proprio non questo, prossimo sabato prima delle vacanze. Bravo. Perché mi sembra una buona cosa farlo prima e non dopo le vacanze, si sa mai. Sì. Però detto questo, io ho un dubbio che vorrei chiedere appunto al vostro dottore, che è questo. Entro quanto tempo il nostro fisico riesce a riprodurre la quantità di sangue che noi andiamo a donare, diciamo che sono 400-500 grammi, adesso non ricordo sì. bene. Allora, professor sì. Grazzini. Sì, dunque, allora, noi sappiamo che il sangue è composto da due parti, no? Una parte cellulare e una parte liquida, che è il plasma. La parte cellulare è composta dai globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, così sì. detto, molto sinteticamente. Sì, grazie, che così ripassiamo un po'. La parte liquida si ricostituisce in modo estremamente rapido, e infatti dopo la donazione si consiglia sempre di bere dei liquidi, semplicemente acqua, succhi di frutta, tè e quant'altro, per reintegrare la parte liquida. Comunque l'organismo la reintegra praticamente in modo autonomo. La parte cellulare, a seconda delle cellule, in particolare i globuli rossi, prendono un pochino più di tempo. Diciamo che i globuli rossi sono ricostituiti completamente entro 30 giorni. Infatti l'intervallo a protezione del donatore tra una donazione e l'altra nel donatore di sesso maschile è di 90 giorni, quindi non si può donare sangue intero più di una volta ogni 3 mesi, e nelle donne, soprattutto in età fertile, la distanza tra una donazione e l'altra prescritta è di 6 mesi. Quindi in ogni caso la ricostituzione degli elementi del sangue è sostanzialmente molto rapida e sicura. La quantità che si preleva è assolutamente compatibile, viene un po' fatta su misura per sì. ogni donatore, ed è compatibile con lo stato fisico del donatore. Professore, sì. mi scusi, tra l'altro ho scoperto, magari che sul sito di avisdomo.it, sì. mettendo tutte le, ti chiedono l'età, allora il nome, età, peso, viene proprio esattamente fuori la quantità di sangue che viene prelevata. Esatto. E questo secondo me è una bellissima idea rassicurante. Esatto. Perché molti il limite di sicurezza per un prelievo di sangue donato è quello del 13% del volume di sangue che una persona, che ogni singola persona ha addosso, insomma. Questo è il limite. Quindi chiaramente Enrico, presso i servizi trasfusionali stiamo al di sotto di questo limite. Enrico, tutto chiaro? È caduto Enrico, speriamo di sì. Intanto io, come promesso, vi lancio una nuova sfida. Andiamo a sentire. Il suffisso RH deriva dalle iniziali dello scopritore del sistema, da una scimmia. Da un termine latino, è l'acronimo di reazione antigene. Chiamateci, uno di voi tra quelli naturalmente che daranno la risposta giusta all'800 24 00 24, potrà ricevere a casa i primi 10 racconti della raccolta Racconti d'autore del Sole 24 Ore. E a questo proposito vi ricordo che questa domenica esce il 10° volume. Questa domenica in edicola soli 50 centesimi in più, oltre al quotidiano, i racconti di Abraham Joshua. Capitò silenziosamente, mi colse impreparato. Non feci in tempo a capire cosa e come e già ero in ginocchio. Mi dibatté convulsamente, ma era tardi. Il mio cuore pianse nelle vene scosse. Tutto era perduto. Abbiamo ascoltato l'incipit e io saluto il professor Andrea Bacigaluppo, primario di ematologia e trapianto all'ospedale San Martino di Genova. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e ai nostri radioascoltatori. Sì, professore. Parliamo di sangue cordonale, sangue midollare. Esatto, adesso. Esatto, perché ci sono le donazioni, ci sono altri tipi di donazioni oltre a quelle che noi siamo abituati a pensare, che rimanda all'immagine del braccio con l'accio e la siringa. E infatti insieme al professor Bacigaluppo parleremo di questi due altri tipi di donazione. Professore, che cosa ha di speciale, di diverso il sangue cordonale rispetto al sangue che circola nel nostro organismo? Quello che ha di diverso è che contiene le cosiddette cellule staminali emopoietiche, quindi contiene cellule capaci di ricostituire tutto la produzione del sangue, della linfa, diciamo. Quindi è un sangue preziosissimo, una riserva molto importante che voi invitate a donare, ma... Professore, intendiamoci bene sui termini, sul tipo di donazione che voi sostenete. Ecco, il sangue cordonale è una donazione che una volta discussa e spiegata alla partoriente può essere accettata in modo abbastanza facile, perché se non donata viene addirittura distrutto. Quindi sì, diciamo che parliamo di un prodotto di sangue cordonale, che nella maggior parte dei casi viene addirittura scartato una volta che il bambino è nato. Si è scoperto 20 anni fa che invece questa sorgente è ricca di cellule staminali, e quindi di qui è nato tutto il progetto di trapianto di sangue cordonale, che oggigiorno riguarda decine di migliaia di pazienti. Il sangue cordonale può essere donato alle banche cordonali che esistono in Italia, e come le nostre ascoltatrici certamente sapranno, può anche essere donato per il proprio bambino. E questo è quello che alcune mamme? No, sì, alcune mamme, ma soprattutto non alcune organizzazioni private suggeriscono. Noi come comunità scientifica abbiamo discusso a lungo di questa problematica, e in realtà non ci sono argomenti a favore della donazione autologa, quindi noi oggi certamente suggeriamo alle mamme di affidarsi alle banche pubbliche ospedaliere di cordone ombelicale, perché garantiscono qualità e conservazione del cordone, mentre le organizzazioni private, oltre a prendere i soldi della conservazione, in realtà non possono garantire la stessa qualità. Primo. Secondo, non abbiamo nessuna evidenza scientifica che il sangue cordonale donato per il proprio bambino possa essere certo utile. Essere e benessere. Ciò che non è donato è perduto, professor Bacigaluppo. Noi abbiamo iniziato la trasmissione con questa frase che ci ricordava il professor Grazzini: per il sangue cordonale questa calza assolutamente a pennello. Quindi mandiamo un messaggio ai genitori in attesa. I genitori in attesa si possono rivolgersi in un ospedale, di solito oggi i bambini nascono in ospedale, una volta nascevano a casa, ma oggi in ospedale, e nell'ospedale, di solito in una città, tutte le città hanno una banca di cordone ombelicale, rivolgersi quindi al loro ostetrico per chiedere se possono donare il cordone. E il consiglio che la comunità scientifica dà, ma anche il Papa lo ha dato recentemente in una sua lettera che ci ha mandato, quindi in qualche modo ha sposato questa linea, possono chiedere di donare a una banca pubblica. Si può donare, dicevamo, professore, anche il midollo osseo, sangue midollare, dato che il midollo osseo si presenta come sangue, si trova nella cavità delle ossa, in particolare bacino, costo, sterno. Sempre sangue. Ecco, allora, ma che requisiti deve avere il donatore e soprattutto come avviene questa donazione? La donazione di sangue midollare, anche questa viene fatta con lo scopo del trapianto, esattamente come il sangue cordonale, quindi rientra poi nel registro mondiale, c'è uno solo registro internazionale di sangue cordonale, sangue midollare e sangue periferico, perché poi si può anche donare col sangue periferico con una particolare stimolazione. E il sangue midollare viene donato con aspirazione con degli aghi dal bacino, quindi si possono fare tranquillamente, noi facciamo oggi 12.000 donazioni di sangue midollare all'anno tra l'Europa e l'America, quindi un numero molto elevato, e quindi è una procedura ormai molto consolidata e sicura. Il donatore deve essere giovane, noi di solito li prendiamo sotto i 40 anni perché sono più fisicamente a posto. Sì. Un donatore che abbiamo fatto la settimana scorsa, che è un grande un giocatore di basket, dopo una settimana è ritornato ad allenarsi. Ecco, grazie professore per questa sottolineatura che avevamo già affrontato, ma mi piace tornarci perché ne avevamo parlato proprio con Igor Cassina. Professore, grazie per essere stato con noi. Grazie a lei. Buonissima giornata. Buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a lei. Professor Grazzini, intanto molti ascoltatori mi stanno scrivendo dei dubbi, delle domande, ad esempio, prendo i farmaci per la pressione alta, posso donare sì o no? Si può donare? Ci sono dei farmaci che ci impediscono la donazione, alcune terapie? Sì, al di là il pericolo dei farmaci non è tanto legato al fatto di infondere con il sangue i farmaci al paziente, in piccola parte anche questo, ma soprattutto è legato alla eventuale patologia della quale il donatore è affetto, ovvero se il donatore prende dei farmaci, il medico che fa la selezione clinica del donatore deve indagare bene perché prende questi farmaci. Poi i farmaci comunemente utilizzati, per esempio nell'ipertensione ben controllata, non sono una controindicazione alla donazione del sangue, sempre che l'ipertensione sia ben controllata. Ecco, mi premeva, è un esempio tipico, mi premeva sottolineare clinica, questo. La selezione clinica che si fa nel servizio trasfusionale o nell'unità di raccolta è mirata a garantire certo la sicurezza del paziente, ma in primo luogo la sicurezza del donatore, quindi è su quella che si giocano tutte queste, diciamo, problematiche che vengono ovviamente affrontate di volta in volta per ogni singolo donatore. Chiudiamo in bellezza, abbiamo ancora però un po' di minuti per fortuna, con il dottor Vincenzo Saturni, che è responsabile dell'AVIS nazionale. Buongiorno dottore. A tutti i radioascoltatori. Noi chiudiamo come abbiamo aperto, perché noi abbiamo aperto con una frase che abbiamo proprio preso dalla pagina dell'home page dell'AVIS nazionale. Su tutto scorre Pantarei questo principio secondo cui l'essenza delle cose, il movimento, potrebbe avere nel sangue il suo simbolo per eccellenza. Il suo movimento e la sua efficienza è legata alla nostra vita. L'ho trovata così bella che ho detto voglio aprire così. Benissimo. E questa è una frase su cui voi avete lavorato, no? Sì, è il frutto di un lavoro. Esatto, è stato proprio il tema che ha guidato il Forum Nazionale Giovani che si è tenuto a Napoli a febbraio, perché con questo, con i ragazzi che hanno lavorato due giorni, si è voluto proprio affrontare il tema della donazione, della trasfusione, alla luce anche delle novità scientifiche che ci coinvolgono e che quindi hanno consentito di far approfondire il tema ai ragazzi in un'ottica anche molto simpatica, perché partendo da questo discorso che tutto scorre e che il sangue rappresenta anche nell'immaginario collettivo la vita, sicuramente abbiamo lanciato dei messaggi interessanti e positivi. Dottor Saturni, voi puntate molto sui giovani, coltivate la cultura della donazione, avete tanti progetti, puntate ai ragazzi. Sì, sicuramente l'ambito del giovanile è quello a cui noi premiamo su due versanti. Il primo sicuramente è quello della promozione della cultura della solidarietà e del dono, e dall'altro lato però anche a coinvolgere nell'associazione. Certo. Tra queste iniziative, quelle più diciamo vicine a noi dal punto di vista temporale e significative sono il protocollo che abbiamo siglato con il Ministero della Gioventù, che ci vede impegnati nel promuovere la donazione ma anche stili di vita sani e positivi, e poi l'ultimo librettino che è stato realizzato grazie alla collaborazione gratuita di Silver, l'autore di Lupo Alberto, che ha realizzato queste 32 pagine dedicate soprattutto ai ragazzi tra i 10 e i 14 anni, attraverso il quale noi vogliamo far conoscere l'aspetto dell'attenzione agli altri, della solidarietà, della gratuità, che per Avis si traduce con la donazione di sangue come una risposta immediata a un bisogno di salute, un bisogno di trasfusione che un sempre maggior numero di pazienti presenta anche in Italia. Dottor Saturni, ho bisogno di una risposta rapida, ma sì, di un'indicazione. Dai ragazzi io passerei alle donne. Sì. Le donne in età fertile sono spesso anemiche. Sì. Che cosa suggerite voi? C'è comunque una donazione possibile? Ma allora, prima premessa è che negli ultimi anni, parlando di giovani e donne, il numero di nuovi donatori sono prevalentemente di genere femminile, questo è un dato positivo. Dal punto di vista strettamente della donazione, ci può essere una frequenza maggiore tra le donatrici rispetto ai donatori di questa situazione, ma è possibile tranquillamente fare una donazione mirata di uno o più emocomponenti, in particolare si può donare il plasma, che è la parte liquida del sangue, dove non essendo contenuti i globuli rossi, questo tema della carenza di ferro non viene ad intaccare l'integrità della donatrice. Però dall'altro lato la disponibilità di plasma è assolutamente necessaria in Italia, soprattutto nell'ambito dei farmaci plasma derivati. Allora è arrivato il momento di sentire gli ascoltatori che hanno provato a rispondere alla nostra sfida, la seconda sfida, quella il suffisso RH deriva da. Allora abbiamo in linea il Mario, senza il Mario da Messina. Buongiorno Mario. Buongiorno a lei e a tutti anche gli ascoltatori e i vostri collaboratori. Grazie Mario, siamo in chiusura rapido. Sì, la mia risposta è questa: l'RH è una proteina e prende il nome dalla scimmia Macacus rhesus, da un esperimento del 1904. Professor Grazzini, sì. Noi abbiamo preso, tra l'altro non potevo dirlo bravissimo, all'inizio, bravissimo. Noi abbiamo preso queste domande dal sito del Centro Nazionale del Sangue, un sito molto bello, devo dire, come quello dell'Avis, come quello delle associazioni per i volontari. Andate a visitarli più spesso perché troverete delle informazioni molto utili, e allora il nostro ascoltatore potrà ricevere a casa i primi 10 libri di racconti d'autore. Io comunque vi invito domenica ad andare in edicola, vi aspetta i racconti d'autore a soli 50 centesimi in più oltre al costo del Sole 24 Ore. Abbiamo fatto una bella puntata, io ringrazio davvero tutti voi che siete intervenuti e sono commossa perché ho ricevuto tantissimi messaggi di ascoltatori, professor Grazzini, dottor Saturni, che mi dicono e mi scrivono: mi avete convinto, vado a donare. Grazie a tutti, ci sentiamo lunedì. Essere e benessere,